sulla beat da paura, stile Andrews Wright. Rima cruda, zio, i Cassiama non è la Rai. No, non ti fidare mai della tua donna, perché va così al momento buono fra. Ti mostra la tua B e fa così, zia. Credi che mi bevo una bugia? È colpa mia se mi hai davanti e smarroni la biancheria. Per cortesia, fatti da parte come i conigli. Sei scomodo fra, più del sedile degli sbirri. Sì. Con Simo Mad Boys assettati come assassini. Tu vai a fare in culo con quel frocio di signorini. Io sono Andrew scemo, non faccio i cazzi miei. Hasta luego, tu rompi più cazzo della tipa del Kinder Bueno. Questa è l'armata Mad Boys, sempre attivi 3-6-5 giorni da furiosi. Fra zero respiri, ammiri la mia musica da emicrania. La sensazione che con questa armata non si sbaglia. L'armata Mad Boys, Simo X, Andrew's Ride. Nuova traccia, zio, senti che flow, ora son cazzi tuoi. Noi siamo qui su sto beat che minaccia, che ci facciamo due risate, immaginare la tua faccia. L'armata Mad Boys, Simo X, Andrew's Ride. Nuova traccia, zio, senti che flow, ora son cazzi tuoi. Noi siamo qui su sto beat che minaccia, che ci facciamo due risate, immaginare la tua faccia. Armata Mad Boys, Simo X, Andrew's Ride. 16 mazzate a testa, peggio che un match di Free Fight. All night long come Ricci, sturo bon con gli amici. Odio quando parli e non sai mai quello che dici. Sciacquati la bocca con diversi dentifrici. Fry, ragazzino, fa l'esperto di rap, cazzo ne sa, è così che va. Questa scena ormai è andata a puttane. Tutti che vendono il culo per due briciole di pane. Sullo su sta traccia ti sconvolge come lo speed. Andrew's Ride fa la base, fa paura come lo pensi. Click, click, bang. Siamo bombe ad orologeria. Sangue scorre, rabbia accumulata per la via. Questa mia crew scoppia, il motore ha preso la copia. Quando siamo insieme la fotta che abbiamo raddoppia. Block and colla, la faccia dell'infame nella testa. Quando arrivano i Mad Boys, vi rovinano la festa. Armata Mad Boys, Simo X, Andrew's Ride. Nuova traccia, zio, senti che flow, ora son cazzi tuoi. Noi siamo qui su sto beat che minaccia, che ci facciamo due risate, immaginare la tua faccia. Armata Mad Boys, Simo X, Andrew's Ride. Nuova traccia, zio, senti che flow, ora son cazzi tuoi. Noi siamo qui su sto beat che minaccia, che ci facciamo due risate, immaginare la tua faccia.